Buonasera a tutte e tutti, siete su Zardins Magnetics, questo è un programma condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 21.30. Ci siamo ascoltati la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines e adesso passiamo ad una band finlandese, ci ascoltiamo qualche brano dall'album che si intitola Aistien Jula. E il nome del gruppo è Viimeinen Kolonna. Thank you. Vi saluto anch'io e vi auguro buon ascolto di The Rhythm Magnetics. Allora, oggi per chi ha ricevuto così la promo, diciamo, proporremo il quarto frammento della serie di contributi sull'idea di rivoluzione, e l'incipit di questo quarto frammento dice: l'epoca della rivoluzione è appassionata, la nostra è un'epoca ragionevole, riflessiva, senza passione. E scopriremo un po' più avanti nel corso della serata, appunto, i contenuti di questo quarto frammento. E leggeremo poi un volantino, un documento dei compagni e delle compagne di Venezia, e che invece di passione ne hanno messa molta. Mi riferisco al corteo del primo di marzo, appunto, per la Palestina e contro la Leonardo e la Fondazione Italia, che si è svolto proprio a Venezia. E poi parleremo di altre così interessanti iniziative antimilitariste, e infine presenteremo la seconda iniziativa contro le zone rosse, il DDL sicurezza, e in generale, insomma, contro la militarizzazione della città di Udine e della società, che si svolgerà questo sabato, quindi è il 15 di marzo, dalle ore 16 fino alle ore 19 in centro città a Udine. E ancora un po' di musica e poi iniziamo. ancora sul primo marzo a Venezia, ancora in piazza al fianco del popolo palestinese, anche se l'attenzione cala. La kefia passa di moda e i colori palestinesi lasciano il posto ad altre casacche. Il genocidio non è finito, si è geograficamente spostato, ma l'infamia in atto continua. Ciò che è finito è la coerenza da parte di tante e tanti solidali, per i quali le parole che si dicono non hanno un peso e non bisogna dare una conseguenzialità tra pensiero, parola ed azione. Ancora in piazza contro il conflitto in Ucraina, che in 3 anni di guerra per gli interessi delle borghesie occidentali, da decenni impegnate per espandersi ad est a danno della Russia, ha dimostrato come lo scontro tra poli imperialisti miete vittime tra i proletari russi e ucraini, scaricando i costi economici della guerra sulla classe oppressa europea. Ancora in piazza per ricordare che alla guerra capitalistica si può rispondere solo con la diserzione, come sempre più soldati ucraini e russi stanno facendo, e che in tempi di guerra è importante avere una bussola etica che definisca il nostro agire. Ancora in piazza perché tra Palestina ed Ucraina emerge qualcosa: intelligenza artificiale significa morte, capitalismo ed imperialismo significano distruzione, tecnologia significa oppressione. Ancora in piazza perché l'unico modo per opporsi alla repressione e alle zone rosse è con la conflittualità, provando a violare le imposizioni e i divieti. Bloccare una zona rossa, anche se per poco, è un modo per arginarla. Ancora in piazza per indicare i responsabili del genocidio in atto e della guerra che si fa governo. Leonardo S.P.A. ha uno stabilimento a Tessera, Tiziana Lippiello è membro delle nuove fondazioni di Leonardo S.P.A. nate da Med Or, per l'Italia, per la scuola italiana, e quindi collabora nella creazione di un complesso scientifico militare accademico industriale che, guadagnando dalla guerra, si vuole mettere a capo della ricerca. E questo per tenere lo sguardo vicino a noi. Ancora in piazza a prendere manganellate perché la violenza sbirresca è l'unica risposta a chi cerca di mantenere una coerenza etica in un mondo che ci spinge all'infamia e all'essere dissociati. La separazione dei corpi, della natura, delle vite, in diversi aspetti, è una forma di governo che si attacca tramite una forma di lotta fatta dal contatto umano, dai rapporti di reciprocità, dai legami di verità con i mondi, interni ed esterni, abolendo così la separazione in quanto governo e repressione. Ancora in piazza perché questo è il messaggio del popolo palestinese. 16 mesi di genocidio algoritmico non hanno piegato un popolo e la sua resistenza, grazie al legame di verità che questo popolo ha con il mondo. Un legame di verità fatto di attaccamento alla propria terra, alla vita, alla lotta all'imperialismo occidentale, a tante altre cose. Questa è la responsabilità storica che ci troviamo di fronte. Che legame di verità vogliamo costruire con questo mondo? Il 2024 ha dimostrato che le democrazie liberali occidentali sono complici del genocidio, che il capitalismo è inscindibile dalla guerra, che la tecnologia serve per separare la vita, dalla natura, dalla morte. Prendendo il popolo palestinese come massima espressione di resistenza attuale, non dobbiamo forse anche noi costruire un legame con il vero che faccia poi da guida per le nostre azioni? È solo questo legame con il mondo che ci permette di dare un senso alle manganellate che prendiamo in strada, alle denunce che arrivano tassativamente dopo ogni corteo. È questo legame con il mondo che ci fa andare avanti, proprio perché il genocidio in atto dimostra le complicità nostrane e la nostra impossibilità di far finta di nulla. E questo legame con il mondo si sviluppa nelle piazze, nel resistere alle cariche insieme, nella solidarietà umana, nella reciprocità. La repressione è separazione, è attaccare lo sviluppo di legame di verità con il mondo, ovvero ciò che permette al popolo palestinese di resistere fino alla fine. Qua da noi si vuole attaccare proprio la nascita di questi legami di verità con il mondo, a suon di divieti, manganellate, denunce, eccetera, per evitare di trovare ovunque un popolo che resiste, come quello palestinese, una Palestina ovunque. Che ti sta succedendo? Sta vincendo. Io ne vedo tre di quello là. Becca quello di mezzo. Sì, e come dicevo prima, vorremmo dedicare così un po' di spazio a due iniziative che si sono svolte a Lecco, a Lecco e dintorni, a fine febbraio e il 9 marzo, due iniziative antimilitariste. Allora, nello specifico, il 9 marzo c'è stata questa giornata contro la leva obbligatoria in Europa e per il disfattismo anarchico all'Arrotino. E importante perché appunto mette l'accento sul discorso del disfattismo anarchico e quindi sull'importanza di agire direttamente contro il proprio Stato. E, allora, in questa così situazione insomma di riarmo generalizzato degli Stati europei, vale la pena di ricordare insomma questo Rearm Europe della von der Leyen, per cui nei prossimi quattro anni sono previsti stanziamenti di 800 miliardi di euro per armi e infrastrutture militari varie. In questa situazione molti stati europei che avevano sospeso la leva obbligatoria, come anche lo Stato italiano, stanno invece iniziando a riproporla con varie modalità. Allora, appunto, ci sono gli stati che la reintroducono così com'era in precedenza, chi introduce la leva per le donne mentre prima magari non ce l'aveva, chi propone una chiamata obbligatoria per tutti, quindi però mirata a selezionare, diciamo, una parte specifica di coscritti in base a capacità e anche a volontà. È il caso della volontà di fare la leva, appunto, e il caso della Norvegia. Chi impone brevi periodi di leva obbligatori per tutti, periodi di 45-70 giorni, e appunto con l'intento di abituare, diciamo, i soggetti, le persone a questa presenza dell'obbligo militare, e anche, perché no, con l'intento anche di convincere ad arruolarsi volontariamente. E insomma, comunque, ci sono tutti questi vari modi attraverso i quali gli stati europei si organizzano, ma un elemento in comune tra tutti gli stati è il coinvolgimento sempre più pervasivo delle scuole. Cioè, assistiamo in generale in tutti gli stati, e vediamo in Italia in maniera, è un bel po', insomma, di anni che questo avviene, ma in maniera sempre più veramente capillare, e ci sono collaborazioni dirette tra scuole, tra la scuola e le forze armate. E nello specifico, compagni e compagne di Lecco hanno fatto un'azione contro i campi scuola, praticamente i campi estivi per i bambini e i ragazzini, organizzati dai militari e dagli alpini nello specifico. E questo perché? Perché il 28 di febbraio, appunto, in un paese vicino a Lecco, l'Associazione Nazionale Alpini ha presentato il progetto dei campi estivi per ragazzi dai 9 ai 13 anni, e insomma, i compagni sono andati a boicottare un po' questa presentazione con, appunto, volantinaggio, megafonata, striscioni, campi alpini uguale naia per bambini, eccetera. Quindi hanno un po' rotto le uova del paniere, diciamo, a questi qua dell'ANA. E sì, questa cosa qua è importante, lo svelare e il cercare di danneggiare in tutti i modi, insomma, l'indottrinamento militare dei bambini, no? E perché questa presenza di forze armate all'interno delle scuole è sempre più, appunto, come dicevo prima, è sempre più pervasiva, e porta avanti questa retorica del noi al posto dell'io, dello spirito di squadra, e del rispetto della natura, del ritorno, diciamo, a conoscenze dell'ambiente naturale. Insomma, mette insieme concetti e così tensioni, diciamo, anche se vogliamo anche contraddittorie tra di loro, ma che insomma hanno l'obiettivo di manipolare, appunto, i ragazzi. E allora io sono andata a vedere la pubblicità dell'ANA relativa, appunto, a questi benedetti, maledetti campi scuola, sì, campi vacanza. E loro dicono, proprio è la pubblicità del 4 marzo di quest'anno, del 2025. Loro dicono: ah, se tu partecipi a questi campi estivi potrai esplorare il mondo della nostra sanità, cioè attraverso apprendendo il primo soccorso, e della protezione civile attraverso la presenza di volontari, cinofili, alpinisti, addetti all'antincendio boschivo, addetti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, eccetera. Quindi tirano dentro tutti questi volontari, che poi la protezione civile, insomma, è volontaria fino a un certo punto. E poi dicono: incontrerai poi i militari attraverso attività sul campo e lezioni teoriche, e capirai come i militari, qual è la loro responsabilità, come si comportano, insomma. E poi incontrerai gli alpini in congedo, buoni pure quelli, che ti accompagneranno in escursioni, arrampicate, marce, appunto, e che ti insegneranno a condividere il senso di appartenenza alla nostra patria. E poi continuano questi alpinazzi dell'ANA per convincere la mularia: ti avvicineremo alle nostre regole e alla nostra disciplina, ti inviteremo ad abbandonare l'idea dell'io e ad accogliere quella del noi. Ecco, allora non ci sono questi progetti, insomma, di vacanze estive militari, non sono solamente in Lombardia, eccetera, e in Piemonte ce n'è parecchi in quelle zone, ma c'è, abbiamo scoperto che ci sono anche delle cose anche qua da noi, meno, diciamo, che sono più orientate alla così alle magnificenze della protezione civile. Infatti hanno questo titolo: anch'io sono la protezione civile, però sono organizzati dall'Associazione Nazionale Alpini, e si tratta di questi campi scuola Eagles per ragazzi dai 13 ai 16 anni, dove appunto continuano con questo discorso del contatto con la natura, messo assieme allo sviluppo del senso del dovere, allo spirito, e allo sviluppo dello spirito di squadra. E questi campi hanno già avuto svolgimento, insomma, negli anni passati, in zone come San Pietro al Natisone e Tramonti. E, vai. Anch'io sono protezione civile, per i non regionali, qua con regionali. Ah, sì, giusto. Risuona: io sono FVG o Alpin Yo Mame? No, Alpin Yo Mame, ma sono anche protezione civile, perché hanno questa roba della collaborazione tra volontari, cosiddetti volontari della protezione civile, e militari. E a questo proposito, la regione Friuli Venezia Giulia, che insomma è una regione particolarmente guerrafondaia e militarista nei suoi provvedimenti, e recentemente, insomma, poi ne parleremo anche dopo, ha stanziato nel 2024 84, cioè non ha stanziato, ha fornito nel 2024 84.000 euro agli alpini per questi benedetti campi maledetti campi scuola. E non è finita qua: sempre la regione Friuli Venezia Giulia nel 2025 ha dato all'ANA 352.000 euro di contributi per il rinnovo delle sedi. Quindi ci troviamo in questa situazione qua. Niente, secondo me sono importanti iniziative di questo tipo, come quelle che hanno portato avanti a Lecco. Sì, bisognerebbe svegliarsi anche qua, nel senso che veramente questa ingresso dei militari e delle varie forze dell'ordine all'interno delle scuole è una cosa, cioè, tra l'altro entrano anche tra i piccoli, con i piccolissimi, insomma, con i bambini più piccoli. Ne abbiamo avuto un esempio durante la calata qua degli alpini a Udine, appunto, dove le scuole, sì, di un paio d'anni fa, della dunata degli alpini, non è della calata, della dunata, usiamo i termini tecnici, degli alpini di un paio d'anni fa, che appunto quando uno dei parchi della città, il Parco Moretti, era stato allestito proprio come un territorio di guerra, con armi avveniristiche, eccetera, simulatori, eccetera, eccetera, e scuole di ogni ordine e grado, ma anche scuole materne, quindi bambini di 3 anni, dai 3 ai 5 anni, sono state portate a provare l'ebbrezza di queste tecnologie. Quindi, insomma, queste iniziative, cioè cercare di sabotare appunto la retorica, e perché ci può sempre essere qualcuno, anche genitori, o che magari non, cioè, va avanti così con l'automatismo, magari non ha ben messo a fuoco, no, di cosa si di cosa si parla quando si parla di queste cose, e invece ho anche ragazzi che magari in buona fede possono essere coinvolti in iniziative del genere, che però poi magari facendo uno più uno fa due, insomma, ragionando un po', possono sviluppare un loro senso critico e quindi anche degli anticorpi verso questo così militarismo devastante, insomma, che ci circonda. Questa è la canzone Revenge dei No Means No, e prima ci siamo ascoltati Dead. E, prima, in ordine cronologico, dopo la band finlandese, ci siamo ascoltati Broken Bones, i Concrete Socks e infine i CGB, di band di Imperia. E quindi continuiamo l'ascolto di Revenge dei No Means No. Di questo giovedì 13 marzo qui siamo a Zardins Magnetics. Un saluto anche da parte mia a chi ci ascolta in FM sulla Onde Furlane e in streaming, oppure in streaming di nuovo sulle radio che ci rimbalzano, che sono Radio Azione e Radio Eustachio. Siamo arrivati al contributo che abbiamo preparato sulla questione dell'idea di rivoluzione. Prima però volevo fare un ultimo inciso per i non diciamo regionali. Mularia è tradotto in italiano gioventù. Qualcuno si dimentica e parla in... va bene. Dunque, per prendere un po' le fila, riprendere le fila di questo discorso che stiamo tentando di fare, noi ricordiamo che siamo partiti come spunto da queste 15 pagine intitolate Note preliminari sulla rivoluzione, che trovate sul blog, su un blog che si chiama Nigredo. nigredo.org, uscite in gennaio, anonime, ma penso io sono, si può dire, insomma, siamo dalle parti così di Mario Tronti e affini, quindi autonomia, diciamo, in senso lato, che però va a parare in Parlamento alla fine, ma comunque mille spunti. E chi parla sì, è soggetto, è soggetto a farsi portare fuori carreggiata continuamente, perdere anche il filo di quello che di cui si sta parlando, quindi è molto, diciamo, è quel tipo di articoli che mi sollecitano, ecco, e, a me personalmente. Per riprendere invece il film, ma che invito ad andare a guardarvi, insomma, questa specie di articolo, insomma, se vi interessa la questione. Io devo riprendere un attimo l'ultimo, cioè dalla fine di quello che si diceva nel penultimo frammento della scorsa puntata, dove avevamo parlato di Mikhail Bakunin, e c'era questa questione dei valori universali. No, non è una questione. Bakunin era, diciamo, aveva concluso, fra le sue, diciamo, tesi, c'era questa, che l'esito, diciamo, della rivoluzione francese, quindi del emergere dello Stato moderno con i suoi apparati amministrativi, polizieschi, medici, eccetera, eccetera, assistenziali, eccetera, emergeva, diciamo, un correlato che era il cittadino. Il cittadino risultava, nell'analisi portata avanti da Bakunin, meno, qualcosa in meno di umano. No, perché comunque a che cosa mancava al cittadino? Gli universali. Saltando di palo in frasca, ma non molto, vado a leggervi un qualcosa, insomma, che è stato scritto negli anni 50, quando in occasione della scomparsa, diciamo, di quando era morto Edgar Lee Masters, quindi era proprio l'unità del 12 marzo 1950, Cesare Pavese. Lee Masters guardò spietatamente alla piccola America del suo tempo e la giudicò e rappresentò in una formicolante commedia umana, dove i vizi e il valore di ciascuno germogliano sul terreno assetato e corrotto di una società la cui involuzione è soltanto il caso più clamoroso e tragico di una generale involuzione di tutto l'Occidente. È la voce di una società che non pensa più in universali, disse Lee Masters a un giornalista, e qui inizia la citazione di Lee Masters. Ogni due o tre anni ho, fino a poco tempo fa, riletto tutte le tragedie greche. La civiltà dei greci fu la grande meraviglia del mondo. Essi pensavano in universali, così i drammaturghi elisabettiani. Fine della citazione. Pensare in universali significa far parte di una società dove non siano, come credono gli sciocchi, aboliti il dolore, l'angoscia spirituale o fisica, la problematicità della vita, ma esistano gli strumenti per condurre una comune concorde lotta contro il dolore, la miseria, la morte. E Lee Masters testimonia con l'antologia che la società in cui si è trovato a vivere manca di questi strumenti, di questi universali, in altre parole che essa ha perso il senso e la guida dei suoi atti, di qui le futili e atroci tragedie che hanno riempito il cimitero sulla collina. E va così a portare adesso, poi riporta anche un aneddoto. C'è un piccolo episodio nella vita dell'avvocato Lee Masters che può farci riflettere sul senso della sua opera. Nell'aprile 1914, quando cominciò a comporre l'antologia, difendeva in tribunale un sindacato di cameriere di Chicago, ridotte alla fame. Per tutto quel tempo condusse come una doppia esistenza. Sempre l'intervista di Lee Masters. Oh, ero in gamba, non mi ero mai sentito meglio in tribunale. Ma a volte mi guardavo intorno e tutto era al suo posto, eppure avevo il senso di non far parte di nulla. Scrivevo le poesie a casa, all'ufficio, dappertutto, sulle liste della trattoria, sulle buste delle lettere. Più tardi, quando mi offersero $5,000 per il manoscritto di Spoon River, e dopo che era stato pubblicato, aggiungo io, mi ricordai che l'avevo buttato. Non si conservano le liste della trattoria. Tutto questo solo per dire, insomma, che cosa? Naturalmente l'antologia di Spoon River è stato uno dei libri di poesie più, diciamo, più stampati della nostra epoca, quindi anche delle epoche precedenti. È stato letto, insomma, sia negli Stati Uniti, è stato letto quando è uscito, naturalmente, quindi negli anni 20, diciamo, dai 10-20 e successivi. In Italia, insomma, è stato sicuramente, in Europa non so, ma sicuramente in Italia, per quello che si può dire, essendo stato tradotto durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato un riferimento per tutti quelli che sono, insomma, si sono formati a partire, insomma, gli anni 50 e seguenti, naturalmente 60 neanche occorre dirlo. E forse, ecco, sono cose, mi rendo conto, un po' sorpassate, se vogliamo, cioè di un'altra generazione, ma cerchiamo di vederle, insomma, con lo spirito che abbiamo noi oggi, senza voler, insomma, riattualizzarle, ma nel senso, capiamo, ecco, cosa c'era dentro, ad esempio, dentro l'antologia di Spoon River, e che cosa è andato perso in qualche maniera, non è più di attualità, ecco, è un libro che non si vede comunque oggi in libreria, non è che sul come si chiamano, alla vetrina di una libreria nessuno mette l'antologia di Spoon River. Passiamo, insomma, introduciamo anche l'argomento di stasera, che poi metteremo una canzone. Comunque, io salterei, appunto, da quell'articolo che vi ho detto prima a quella che era la visione di Antoine de Saint-Just, la visione, l'idea che aveva lui di rivoluzione, perché dopo ci serve per, diciamo, seguire il percorso che avevo pensato, insomma, quella citazione che abbiamo messo nella promozione, che non è di Saint-Just. E Saint-Just si ritrovò, insomma, a un certo punto della rivoluzione con questi, a sostenere i comitati di salute pubblica. Il comitato di salute pubblica era un organo, diciamo, non costituzionale, era praticamente una anticipazione di quello che poi altri avrebbero chiamato dittatura del proletariato, cioè in caso di minaccia della realtà rivoluzionaria, chiamiamola così, vengono sospesi tutti quelle che sono le istanze nuove, ecco, di cambiamento che sono emerse dalla rivoluzione, vengono sospese e si mira a salvaguardare la costituzione di quello che c'è, cioè i punti dove si è arrivati fino a quel momento lì. Succede, naturalmente, siamo già 5 anni dopo la presa della Bastiglia, 4-5 anni, siamo nel 793, è quello che poi si chiamò il terrore. Quindi dentro Saint-Just, nella testa di Saint-Just, c'erano una specie di eroismo, sicuramente l'idea di terrore e sicuramente un'idea di istituzioni. E a un certo punto scrive di questo discorso del 10 ottobre, che poi sarebbe, si chiamava in un altro modo, naturalmente c'erano i mesi del calendario rivoluzionario, 10 ottobre 793, lui parla addirittura di ciò che non è nuovo in un tempo di innovazione è pernicioso, cioè è, se si tengono le cose come stanno portano malattia. Si riferiva a tutta una serie di problematiche, insomma, anche di burocrazie che rallentavano l'ordine delle cose. No, non ho detto che la Francia era minacciata, l'esercito della Repubblica era minacciato ai suoi confini. Durante il terrore poi ci fu un ribaltamento, perché appunto grazie al Comitato di Salute Pubblica furono sostituiti tutti i generali che erano di origine aristocratica con generali, diciamo così, ufficiali fedeli ai giacobini, per parlare insomma in maniera sintetica. Quindi il terrore è strumento necessario perché bisogna arrivare a una virtù, cioè a una diciamo una situazione dove non ci sono più questi tramacci, questi aggiottaggi, insomma, che disperdono negli ingranaggi dell'apparato quello che è un punto la volontà del insomma, loro la chiamavano del popolo. Ma questo noi ci serve per dire che c'è in queste tre caratteristiche anche un'idea di tempo, un'idea di temporalità che diciamo non ha un orizzonte sempre più ampio. Quindi se la rivoluzione ha bisogno di un momento di rottura, di un momento di radicale, di ribaltamento, però c'è una prospettiva per loro rivoluzionari di permanenza, cioè un'idea di presente che si dilata, di appunto di momento rivoluzionario che non cessa. Ecco, vedremo il prossimo passo dopo il brano musicale. Tu t'es ça fait longtemps qu'elle t'a lâché. Ecco, quindi col terrore c'è un, diciamo, siamo in epoca di rivoluzione francese, con il terrore c'è naturalmente una serie di regolamenti di conti di varie fazioni, però c'è anche un'efficacia di questo momento, diciamo, di dittatura cosiddetta, cioè che dopo sarà del proletariato, qui non si parla del proletariato, ma comunque è un momento di dittatura dentro la rivoluzione, dove appunto i confini addirittura francesi, oltre che essere salvaguardati, vedono anche un'espansione, arrivano, insomma, vanno oltre, arrivano nelle province del Belgio. Quindi le cose portano a casa il risultato. L'unico piccolo dettaglio è che finisce con i termidoro questo terrore, cioè vengono a sua volta tutti i coloro che hanno promosso il terrore vengono a loro volta giustiziati, tra Robespierre, Saint-Just e altri, appunto, vengono fatti fuori, perché appunto si inizia quel percorso che poi andrà a finire nella dittatura vera e propria con Napoleone Bonaparte. Ma facciamo un piccolo passo indietro nelle nostre puntate di Zardins Magnetics. Avevamo grazie agli spunti dati dall'altro programma radiofonico che si chiama La Nave dei Folli. La Nave dei Folli insomma, era stato proposto questo autore che è un biochimico, Erwin Chargaff, se ricordate, insomma, di origine austriaca. E c'erano i tre interventi suoi, diciamo, in forma di dialogo, dialoghi sullo studio della natura, voci nel labirinto. Avevamo, mi sembra, visto insieme il primo di questi dialoghi. È un trittico che si conclude con questo chimera e epilogo nel labirinto. Ci sono sempre i due personaggi, il vecchio biochimico e il giovane biologo molecolare, soltanto che stavolta praticamente è che il vecchio stavolta è diventato il biologo molecolare, e invece il biochimico, che era vecchio nel primo dialogo, ormai è un fantasma, cioè appare come un fantasma a questo vecchio biologo molecolare. Ma non entriamo nei contenuti del dialogo, vi dico solo che a un certo punto questo fantasma fa un monologo, cioè il fantasma del chimico fa un monologo, e perché appunto i fantasmi non dialogano con i mortali, ma comunque, dove si chiede quando è che è iniziata la miseria, no? Quando è iniziato questo crollare della diciamo, questo andare a male della scienza, insomma, della ricerca, insomma, che è andata a rotoli, si è svuotata di ogni contenuto etico. Un'ipotesi potrebbe essere la rivoluzione francese, però a un certo punto dice anche, bene o male, la rivoluzione francese andò bene ed era anche necessaria, insomma, perché non si poteva andare avanti così. Però è vero che fu proprio allora che appunto cominciarono a venire fuori sti comitati, cioè l'oratoria si guadagnò, insomma, spazio nella realtà, insomma, sociale. Tuttavia, dice, in realtà è l'848 che è l'anno dei disastri. Cosa succede? Nell'848 ci sono una serie di rivoluzioni che vanno male, no? In Germania, Austria, soprattutto, insomma, anche in Francia e in Italia. Fallimenti abissali, quindi rimane in saldamente al comando quella borghesia che si era già diciamo riproposta con la restaurazione dopo la sconfitta di Napoleone. Dice il fantasma: l'Europa perse la sua ultima opportunità di sbarazzarsi del regime della ricca borghesia che si stava affievolendo, della gigantesca tela di ragno a propulsione autonoma degli imprenditori mercantili e industriali. Il tono dei tempi cambiò bruscamente e con esso arrivò la prima gigantesca alienazione delle forze spirituali da parte della società dominante. Da allora il sentimento estremo di non avere una casa non ha fatto che aumentare, ma credo fu allora che nacque. Non avere una casa è... penso che si riferisca alla nostalgia, insomma, in termine tedesco evoca direttamente il, diciamo, diciamo, più che casa, patria, intesa nel senso appunto paese natio. E lo dico anche perché io, a me questa traduzione mi aveva portato fuori strada, pensavo si riferisse veramente a quelli che non hanno una casa, invece si riferisce, penso sicuramente, insomma, perché parla di autori in seguito, di autori, insomma, di scrittori, eccetera. Poi appunto continua il fantasma e dice: quali sono state due pubblicazioni che hanno segnato di questa epoca qui, insomma della metà dell'Ottocento, quando appunto il 48 va a finire con una sconfitta per il proletariato? Sicuramente una, la sanno tutti, è il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. L'altra, secondo il fantasma, invece è un po' più sotto traccia ed è appunto questo breve opuscolo. Si entra qui adesso nei tecnicismi un po', ma cerchiamo di renderlo comprensibile. È un opuscolo che Kierkegaard pubblica nel 1846 con il titolo Una recensione letteraria. Allora, una recensione letteraria, naturalmente tutto quello che ha scritto Kierkegaard, se non tutto, la gran parte di quello che ha scritto, che è tanto, per i contemporanei lo ignorarono, no? Fu come un fiume carsico, come tanti altri autori, e tornò fuori, guarda caso, proprio negli anni, insomma, della Grande Guerra. Fu tradotto in tedesco, dal danese in tedesco, da questo esponente qua, possiamo chiamarlo, non mi avventuro, insomma, però era la rivista dove scrivevano anche altri poeti come Rainer Maria Rilke e Georg Trakl, si chiamava Der Brenner, e appunto lo traduce in tedesco questo Theodor Hacker, col titolo Kritik der Gegenwart, cioè critica del presente. In italiano finalmente arriviamo agli anni 90, è stato tradotto una volta per tutte, oserei dire, col titolo Una recensione letteraria nel 95, ma poi è tornato a essere pubblicato e insomma perché, parentesi, si compone appunto di una recensione di una novella, che adesso tagliamo corto, più una parte invece, diciamo, vero e proprio pamphlet o saggio appunto sull'epoca presente. È questo libretto appunto di Kierkegaard che si chiama in italiano La nostra epoca. Quindi finalmente abbiamo svelato che la frase della nostra promozione era appunto proprio tratta da questo trattato di Kierkegaard. Facciamo solo brevemente un bignami di Kierkegaard solo per dire questo: Kierkegaard è quello che tra i contestatori del sistema hegeliano fa, diciamo, per primo approfondisce, diciamo, il lato dello spirito soggettivo che gli hegeliani, di cui gli hegeliani si erano disinteressati, ma non nel senso che insomma di dire ma si attarda su questo spirito soggettivo, diciamo, come altri irrazionalisti, eccetera eccetera. Ecco, è una caratteristica di Kierkegaard che lui si traveste, diciamo così, adesso, da psicologo, quindi approfondisce quello di cui parlavamo prima, che è questo non sentirsi a casa, questo malessere, diciamo, della civiltà, questo sentirsi a disagio, e prova a capire da dove veniva, insomma, il disagio dei suoi tempi, che poi appunto via via sono aumentati, per non parlare di quelli che sono i disagi dei nostri tempi, ma comunque erano già, lui li percepiva già a loro volta, quelli che lo lessero durante la cosiddetta Kierkegaard Renaissance, diciamo negli anni 20 ancora di più, per insomma l'Europa continentale, gli anni 20 ancora di più, gli anni 20 del Novecento ancora di più. Per noi non ne parliamo, insomma, perché? Perché questo trattato così, che sembra anonimo, insomma, sembra non dir niente, la nostra epoca in realtà è uno dei testi salienti, insomma, di questo autore, perché porta alla luce tutta una serie di questioni che appunto su cui si romperanno la testa gli autori del secondo Novecento. Per partire, appunto, è un'occasione, un voler venire a misurarsi, ecco, col pubblico, specialmente col pubblico giovanile. Kierkegaard, quando lo pubblica, aveva su per giù 30 anni, ecco. Interviene nel dibattito della sua Danimarca di metà 800, degli anni 40 dell'800, per tutta una serie di questioni che lui aveva, insomma, aveva maturato, di sentire come inadeguato il sistema, appunto, che era dominante in quei momenti in ambito culturale, che era quello dell'idealismo hegeliano. Interviene appunto su questioni comuni, fa un'analisi di quella che era l'epoca, appunto. Era un'epoca caratterizzata dalla scomparsa dei fatti, cioè era sommersa già a quei tempi, era nata con la rivoluzione francese, oltre allo Stato erano venuta fuori la stampa, i quotidiani, le gazzette, sommersa da indizi di fatti, cioè da tracce di fatti. Non ci sono più eventi, non ci sono più passioni comuni, c'è una continua attesa di qualcosa che sta per succedere. È per questo appunto che lui parla di riflessione. La riflessione eccede ogni tipo di passione. Si è talmente saggi che non serve far niente, perché non c'è niente da fare. Tutto quello che non si fa va bene, era meglio non far niente. Ci sono continuamente aggiornamenti, informazioni, e sembra sempre appunto che stia per succedere qualcosa che non succede mai, per fortuna. Fa degli esempi anche, insomma, comici, ma poi per aggiungere che c'è poco da fare umorismo, perché comunque l'umorismo deve avere una fondatezza che questa epoca non ha da nessuna parte. Non esiste appunto nessuna esperienza primordiale, no? Non ci sono disperati, in senso tecnico, appunto, di disperazione, di uno che ha esperienza della disperazione, non esistono. Quindi questi qua garantirebbero teoricamente anche appunto una diciamo, quello che dicevo prima, il discorso sul comico, no? Sulla commedia. Per motivi di ordine della puntata, arriviamo alle conclusioni. Le conclusioni sono appunto quali sono le proposte del, dopo queste diagnosi, che sviluppa Kirkcord. Sono una serie di misure, appunto, contro la chiacchiera, più silenzio e più discorso, più dialettica, silenzio e discorso. Lo dico in maniera schematica, giusto per non lasciare in sospeso la puntata, ecco, di stasera. Davanti al pubblico, cioè davanti a questa dimensione artificiale di pubblico, no? Più segreto, più segretezza, davanti all'aberrazione, secondo lui, dell'associazione, perché non abbiamo detto, Kierkegaard non era un, cioè, non era sicuramente uno, aveva delle idee, ma non erano quelle della sinistra hegeliana, ecco, era una critica a Hegel, ma non era una critica come quella portata avanti da Marx e soci. E, appunto, contro l'associazione, insomma, c'è questa figura dell'irriconoscibile, cioè di quello, appunto, che attraverso la comunicazione indiretta cerca di, in qualche maniera, di interagire, di agire sul, appunto, sul persuasione, arrivare alla persuasione del prossimo, alla fine, no? Sempre il discorso che dicevamo prima dello spirito soggettivo, non oggettivo, appunto. Torniamo, per concludere, a Voci nel labirinto, appunto, ai dialoghi sullo studio della natura. Conclude così il fantasma del biochimico. Ecco, sì, a Kierkegaard, la cui dialettica era di un tipo completamente diverso da quello di Hegel, non piaceva Hegel, non poteva conciliarsi con il procedimento superficiale in cui l'interazione di tesi e antitesi conduce a una sintesi che spesso non è nient'altro che la debole accettazione del minimo comune denominatore come consenso. Lui credeva al salto dal fuoco all'acqua e non gli sarebbe mai venuto in mente che la miscela dei due elementi possa essere più pratica. Non era un uomo pratico, non era un democratico, avrebbe pensato che con l'introduzione del suffragio universale ognuno perda il proprio voto, ma di lui, come di ogni uomo ispirato, si potrebbe dire che fu dal deserto che si alzò l'urlo della sua voce. E fu il primo a diagnosticare l'esistenza di un deserto proprio nel mezzo della piccola Copenaghen. Da allora le sabbie stanno crescendo a un ritmo spaventoso. Siamo all'ascolto degli Imperial Leather, una band svedese formata nel 2000, e quello che abbiamo ascoltato in sottofondo e che ci stiamo ascoltando anche ora è l'album che si intitola Something Out of Nothing, uscito nel 2005. E siamo giunti al termine del programma, che è Zardins Magnetics, e passo la parola alla compagna che deve dirci un'ultima cosa. Sì, in realtà non stiamo sforando perché abbiamo iniziato 5 minuti dopo. E no, volevo ricordare l'iniziativa, appunto, contro le zone rosse, contro il decreto sicurezza, in generale contro la guerra, contro la militarizzazione della società, che ci sarà sabato 15 marzo a Udine dalle 16 alle 19 in Piazza Libertà, angolo via Cavour. E allora, la zona rossa a Udine non è stata rinnovata, la sua durata è stata dal 16 di gennaio fino al 10 di marzo, e il prefetto non ha rinnovato questo provvedimento su tutta il territorio previsto, diciamo, cioè tutto il centro storico e la zona della stazione ferroviaria e immediata periferia. Però attenzione, sono già lì che dicono che stanno pensando a delle zone rosse specifiche in territori specifici, e proprio oggi c'è stata una seduta del Comitato per l'Ordine Pubblico in prefettura su richiesta del Comune, per una stretta sulla sicurezza, letteralmente hanno detto così, alla stazione di posta, che sarebbe un diciamo asilo diurno per persone senza tetto, e proprio questo potenziamento, diciamo, della sicurezza in questa che riguarda questo luogo qua, che tra l'altro è vicino allo spazio autogestito di Via dei Rubeis, prevede, per voce della assessora alla sicurezza partecipata alla polizia locale, prevede presenza ulteriore di forze dell'ordine e poi potenziamento illuminazione pubblica e installazione nuove telecamere, quindi non è assolutamente finita. E concludo, quindi vi invito a partecipare, ci sarà la pioggia ma noi saremo sotto i portici, quindi non c'è problema, microfono aperto, interventi anche insomma da fuori. Dico per finire solamente questo, che secondo il prefetto Lione, l'ordinanza dice che è stato un successone questa zona rossa con 31 allontanamenti, poi magari ne ritorneremo sulla questione, e dice l'ordinanza sulla zona rossa, leggo letteralmente quello che dice il prefetto, è stata uno strumento in più per attuare delle misure di prevenzione e fa riferimento esplicito al decreto Minniti, quindi per attuare delle misure di prevenzione sulla scia del decreto Minniti e quindi del DASPO urbano, che però prevedeva un allontanamento di 48 ore, invece con l'introduzione della zona rossa questo DASPO urbano viene allungato per tutto il periodo, quindi questa ingiunzione di allontanamento viene allungato per tutto il periodo in cui dura la zona rossa, quindi in questo caso i due mesi e rotti che è durato. E ci dice il prefetto Lione, queste misure di prevenzione servono ad allontanare personaggi che comunque creano disturbo all'ordinato svolgimento della vita quotidiana della gente. Non commento nemmeno queste parole, magari ritorniamo su questo creare disturbo all'ordinato svolgimento della vita quotidiana della gente. E niente, ribadisco l'invito a partecipare sabato prossimo, sabato 15, a questo presidio in Piazza Libertà, angolo via Cavour.